quella sera maggio ti incontrai, fu la sera che mi innamorai. Quanti sogni ancora corre, quanto, quanto amore, ma però vicino mare ti ricordi il nostro grande amore. Adesso invece te ne vai coi pescatori, io ti baciavo tutte sere giù a Posillipo e tu dicevi voglio bene solo a te. Maria Mari, mi volevi come marito, poi con tutti i pescatori l'ho pescato a far l'amore. Maria Mari, quando penso che m'hai tradito, per potermi vendicarti vorrei buttare a Marco dalla funicola. Vicino mare, ti ricordi il nostro grande amore, e adesso invece te ne vai coi pescatori. Volevi come marito, poi con tutti i pescatori t'ho pescato a far l'amore. Maria Mari, quando penso che m'hai tradito, per potermi vendicarti vorrei buttare a Marco dalla funicola. Vicino mare, ti ricordi il nostro grande amore, e adesso invece te ne vai coi pescatori. Vicino mare facemmo amore.